Due di denari, il programma che informa con autorevole leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Per averti pagherei un milione anche più, anche l'ultima Marlboro darei, perché tu sei oggi mi rifaccio gli occhi finalmente. Sì, e adesso... non perché, come direbbe Leonardo Manera, tu sei bello, bellissimo. Ah no, bello e monello, a dire la verità. Buongiorno Deborah, grazie di aver ricordato questa parte, l'unica lusinghiera peraltro che Leonardo si permette nei miei confronti. Perché non hai sentito cosa ha detto stamattina alle 10.30? Stavo raggiungendo qui la fiera di Vicenza Oro. E quindi non sai. Ha detto che praticamente tu aspetti la conclusione di questa kermesse, di questa fiera, per andare in giro con una scopa e una paletta e raccogliere tutte le pietruzze d'oro che magari gli standisti hanno lasciato così abbandonato, allora, smontando gli stand. Al di là ovviamente della immancabile querela che è pronta a partire, anche il oggi. Mio avvocato ha un da fare con lavora solo per te praticamente, con nessuno e 100.000, sì, praticamente si sta ingrandendo lo studio a spese loro. Però effettivamente sono venuto nel posto giusto, perché cara Deborah, sì? Vicenza Oro, devi sapere che è la manifestazione dove tu puoi incontrare le eccellenze della produzione orafa italiana e internazionale. Quindi sottolineerei quella italiana. Esatto, non sono mica venuto qui a casaccio. Bravo. E quindi sono venuto nel posto giusto, se poi cade qualche cosa dagli stand, insomma, non è mica colpa tua, non puoi lasciare. È come quelli che ritrovano il portafoglio di cui abbiamo raccontato più volte in questi giorni, restituirai quello che trovi. Ma certamente, guarda, io inseguirò tutti gli espositori uno per uno o al massimo restituirò al nostro ospite, che voglio già presentare. Molto posso volentieri, farlo, assolutamente sì, perché sennò ci caccia da questo stand. Siamo peraltro al padiglione 8 e siamo immediatamente a ridosso dell'ingresso, quindi è impossibile non vederci e non intercettarci per tutti coloro che vorranno venire a trovarci e salutarci. Mauro. Così come ha fatto Enrico Peruffo, che è amministratore delegato di Fratelli Bovo e presidente di Confindustria Orafa Vicenza. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Grazie, buongiorno a voi. Oggi è mercoledì, dobbiamo però specificare che taglio daremo alla trasmissione. Non parleremo tanto di questa iniziativa, perché lo hanno fatto anche in altri programmi, visto che Radio 24 è presente con molte trasmissioni qui a questa manifestazione, ma noi naturalmente, essendoci caduta di mercoledì, che cosa siamo venuti a fare? E noi siamo venuti a parlare di dov'è il nuovo lavoro, esatto. Perché anche nel settore dell'orafo, dell'oreficeria, c'è lavoro. Tra l'altro tu hai fatto bene a parlare di taglio, perché qui si parla anche di gioielli e quindi anche il taglio è importante. Parleremo però anche di formazione, perché sono curioso di sapere se anche qui, che pure mi pare di capire è un'eccellenza, è un'altra delle molte eccellenze italiane, c'è un problema di mismatch, come lo chiami tu. Anche perché è un altro settore che, come molti altri, si sta evolvendo, digitalizzando, rendendosi sempre più moderno dal punto di vista tecnologico, in tutta la filiera, in ogni momento dell'ambito produttivo, per cui ci sono tante professionalità richieste e la scuola è ancora un pochino indietro rispetto alla formazione appunto dei talenti che dovrebbero coprire queste posizioni professionali. Allora, lavorate o siete imprenditori nel settore orafo e magari non avete avuto l'opportunità di venire qui a Vicenza? Qual è la vostra percezione dello stato di salute di questo mercato, di questo settore? Quali le competenze più richieste? Vi piacerebbe lavorare in questo ambito, anche magari studiare, visto che ieri abbiamo dedicato la nostra trasmissione all'iscrizione alla scuola superiore? Magari qualcuno sta accarezzando l'idea di invogliare il proprio figlio a occuparsi di questo settore, perché no? Sentite un po' che opportunità ci sono questa mattina e magari dalla teoria si passa anche alla pratica dell'iscrizione in un istituto specializzato. Il numero verde 800240024 è sempre a vostra disposizione, anche se noi ci troviamo a Vicenza, e potete anche mandarci degli sms sui WhatsApp abbiamo un po' più di articolazione questa mattina perché siamo in trasferta, però 349 238 6666 è il numero per mandarci dei messaggi, short message come si diceva una volta, adesso penso che non lo dica più nessuno, solo quelli della mia età, diversamente giovani. Ti sei mangiato il vocabolario di inglese anche stamattina prima di venire qua? Un morsino qua e là giusto per colazione, ma abbiamo il giornale radio del risparmio? Ma secondo te non lo portiamo in trasferta? Ma stai scherzando? Ecco. Ma certo. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Una monetina a te, una te, una monetina pure te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Allora, ti voglio raccontare che cosa ha scoperto l'IVASS, che è l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo. Cosa ha scoperto? Ha denunciato 6 siti internet irregolari che distribuiscono polizze RC auto false. E ancora una volta dobbiamo parlare di questi serpenti corallo che a quanto pare circolano anche nel mercato assicurativo. Si tratta di, ti dico i nomi. Sì. www.assiassicover.it. Sì, forse questo si poteva capire, allora, che non era tanto serio. www.assiassicover. Questo tra l'altro c'ha anche un nome che richiama la manifestazione che ci ospita oggi. goldassicura.com. Sì. assicuraqui.it. Sì. latemporanea.net. Vabbè. directassicurazione.com. Questo è già più plausibile. E quixabrokerassicura.com. Quindi tra l'altro alcuni nomi richiamano anche in qualche maniera soggetti già esistenti sul mercato, grandi player, e quindi è più facile imbattersi in questi siti truffaldini. I veicoli per cui è stato stipulato un contratto, ha precisato l'istituto, non sono assicurati, per cui andate a vedere, cercate di ricordare se vi siete assicurati su questi siti. L'IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono, sono sempre molto convenienti e questi prezzi molto stracciati deve generarvi qualche dubbio, quindi fate attenzione. Casomai consultate, proprio partendo dal sito ivas.it, i vari cataloghi che sono disponibili in rete per capire quali sono i soggetti che sono legittimati ad assicurare online, perché purtroppo questo vezzo di attirare clienti, in realtà di truffare la gente appunto promettendo polizze assicurative che poi non proteggono niente e nessuno, si sta diffondendo sempre di più e ovviamente quando uno se ne accorge potrebbe essere anche tardi, pensare di essersi assicurato invece non avere alcuna copertura. Allora, abbiamo un bilancio molto fresco sulla distribuzione del reddito di cittadinanza, Mauro. Quanti ne ha erogati? Allora, l'INPS ha accolto 1.100.000 domande tra reddito e pensione di cittadinanza, però 56.000 famiglie di quelle che hanno ottenuto il beneficio sono decadute, quindi famiglie titolari di reddito sono 916.000. fanno 2.400.000 persone coinvolte, e pensioni di cittadinanza sono 126.000 le famiglie, 143.000 le persone coinvolte, quindi stiamo a 2.500.000 di persone, insomma, decisamente lontani da quelle che erano le premesse di tutto lo strumento, che doveva, come sai, arrivare fino a 5 milioni di persone. Che si trovano in condizione di povertà. Si è via via centrato, secondo me, in modo un po' più chiaro. E poi forse anche c'è stato qualcuno si è ricordato magari di avere delle entrate che così non si ricordava di avere o non si era ricordato di dichiarare. Lo sai che c'è questa patologia diffusa che si chiama, in termini scientifici, economia informale? Sì, sono delle amnesie più che altro, uno non si ricorda che ha degli introiti e quindi non gli dice magari all'agenzia delle entrate. Comunque, uscendo invece da questo tipo di polemica, c'è da ricordare come il reddito di cittadinanza quindi risulta erogato nel 90% dei casi a un italiano, solo il 6% risulta erogato a extracomunitari, il 3% a cittadini europei. Giova anche ricordare che poi è in faticosa partenza tutta la seconda parte, cioè quella di avviare a formazione e lavoro da parte dei navigator, da parte dei centri per l'impiego. Lì, come sapete, ce ne siamo occupati più volte, la cosa procede diciamo a velocità un pochino di crociera, cioè molto bassa. Ah, ok. Allora, senti, la notizia sul reato di omesso versamento per chi non salda l'IVA ma paga i creditori me la spieghi tu, perché è troppo complicata, come sempre per me, addentrarmi nei meandri fiscali così non è che mi appassiona particolarmente. niente, visto che ho la grande opportunità professionale di lavorare con te, lascio a te il racconto di queste notizie. Io volevo raccontare invece un'altra storia, che è quella relativa ad una sorta di premio di matematica applicata. Non che la matematica mi appassioni, ma in realtà, siccome spesso raccomandiamo le famiglie, lo abbiamo fatto ieri anche in altre trasmissioni, di instradare i ragazzi verso lo studio delle discipline matematiche e scientifiche, allora vi volevo raccontare che cosa sta succedendo all'Università Cattolica di Milano, credo che sia, sì. Esatto, allora saranno oltre 8.000 gli studenti che si daranno battaglia per aggiudicarsi la 19ª edizione del Gran Premio di Matematica Applicata. Questo è un concorso educativo che è stato realizzato dal Forum Ania Consumatori. L'Ania è l'associazione delle imprese di assicurazione italiane, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie della Cattolica appunto di Milano, con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. L'iniziativa coinvolge 139 scuole superiori di 18 regioni italiane e ha proprio l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l'adozione di, spiegano appunto, un atteggiamento razionale basato sul problem solving, fondamentale per la loro formazione. È un premio che si svolge in un paio di prove. La manifestazione si chiuderà il 21 marzo con un evento presso l'Ateneo milanese, dove verranno premiati i vincitori. Allora, lo segnaliamo perché nel settore assicurativo, a proposito di mismatch, c'è grande bisogno di questa figura professionale che si chiama attuario, che noi spesso ci interroghiamo che cosa faccia, ma nella sostanza un po' adegua anche i premi che devono essere versati alle assicurazioni e poi le prestazioni degli assicuratori al, come dire, processo demografico in corso, al sistema sociale che si evolve. È una figura centrale proprio nel sistema previdenziale, anche per tutte le casse previdenziali, sistemi pensionistici, pubblici, privati, eccetera, e quindi è una figura che diventa essenziale via via che la popolazione, per dir così, prende per più anni la pensione. Certo. Speriamo almeno che sia così. Sì. Allora, ho un debito con te, vuoi che ti spieghi questa vicenda dell'IVA? So che ti appassiona. Mi è venuto un brivido lungo la schiena. Lo immagino. Allora, no, guarda, è una cosa importante, la puoi leggere sul Sole 24 Ore di oggi, perché cos'è successo? Che c'era un imprenditore che non ha pagato l'IVA, ma invece ha deciso di pagare i creditori. E gli hanno contestato il reato di omesso versamento. Questa IVA non era una amnesia, ma una scelta precisa fatta per privilegiare, in questo caso credo appunto, i creditori dell'azienda. E perché lo diciamo? Perché in qualche caso è stato invece deciso che se uno era in stato di necessità e quindi doveva decidere tra pagare gli stipendi ai dipendenti e pagare l'erario, vabbè, poteva essere perdonato entro certe soglie, naturalmente, sì, dal fatto di non avere assolto i suoi obblighi fiscali. Abbiamo raccontato di un'imprenditrice che ha fatto recentemente questa scelta, sì. Ma in questo caso è stata proprio una decisione dell'imprenditore, che non era costretto, a quanto pare, dalle circostanze. Quindi lui, con una decisione cosciente e volontaria, senza configurarsi una causa di forza maggiore, ha detto: io l'IVA non la pago e pago invece i miei creditori. È arrivato fino alla Cassazione. La Cassazione, con la sentenza 50.007, come la gente, che è stata depositata l'11 dicembre, gli ha invece contestato, ha detto: no, qui è omesso versamento IVA, ci dispiace caro imprenditore, qui non ci sono le cause di forza maggiore, c'è invece il dolo, e quindi mi spiace per lei, ma non ci può essere alcun perdono. Certo. In materia. Ancora una coda polemica, la questione che abbiamo sollevato ieri, Mauro, sul tema del mutuo che molte persone non riescono a rimborsare perché hanno sottoscritto un finanziamento un po' troppo al di sopra delle proprie possibilità e oggi si ritrovano appunto a non riuscire a ripagare le rate. E allora, siccome noi abbiamo ieri raccomandato le banche intanto a derogare mutui un po' più piccolini, magari qualche volta dicendo di no se non si ha la convinzione che la persona che lo chiede abbia la possibilità appunto di essere di rispettare le scadenze delle rate, e però ci siamo tirati addosso un sacco appunto di contestazione da parte di ascoltatori, e tutto ciò oggi è contenuto all'interno di questa nuova puntata di Dillo a Due di Denari. Senti un po'. Sentiamo. Dillo a Due di Denari. Salve, sono un ragazzo di 26 anni, ho la mia compagna di 24, lavoriamo entrambi con un figlio ed abbiamo un mutuo di 1.100 euro al mese. La banca, fortunatamente, ringraziandoli, ce l'ha dato e ci abbiamo potuto comprare la nostra casa. Buongiorno, vorrei avere un'informazione. Io 2 anni fa ho fatto un mutuo e l'ho surrogato lo scorso anno. Adesso lo sto nuovamente per surrogare con la mia banca, che è la Fineco. Ma praticamente poco prima di Natale, quando mi era stato fissato l'appuntamento per fare la surroga e tutto quanto, si sono accorti, veramente all'ultimo secondo, ovvero il giorno prima per il giorno dopo, che il vecchio notaio che aveva fatto la surroga, parliamo di circa un anno prima, praticamente non aveva fatto delle annotazioni relativamente all'ipoteca. Ha avuto la quiescenza da parte della banca che aveva surrogato con grosso ritardo, perché dice che è una prassi che le banche pagano in ritardo, e lui se l'era presa con, anzi una lei, se l'era presa con molta molta calma e non l'aveva mai fatta questa annotazione, e quindi mi è saltata la surroga. Nel frattempo però il tasso di riferimento, che mi era un tasso fisso, è aumentato di alcuni decimali, quindi si è passato da 1,075 a 1,05. Io posso chiedere i danni al vecchio notaio? O comunque a chi stava curando la pratica, che si sono tutti quanti mossi con estremo ritardo? Grazie. Allora, magari per qualche svista e qualche errore, in genere i professionisti sono assicurati, qui bisogna capire e sicuramente se... lo sono i notai, però bisognerebbe qui esaminare, lui può rivolgersi al consiglio notarile della sua località, della sua città, e chiedere appunto informazioni, perché bisogna individuare esattamente quali potrebbero essere le responsabilità del professionista in questo caso, quali invece degli altri soggetti coinvolti, a partire ovviamente dall'istituto di credito. Per il resto, per la famiglia che paga un mutuo ben contenta di farlo da 1100 euro perché si ritiene una condizione economica stabile e solida, noi siamo ben contenti, sperando che naturalmente il reddito che entra nella, in quella casa, in quella famiglia, sia ben superiore almeno al triplo, al doppio sicuramente della cifra pagata appunto per il mutuo. Quindi noi non abbiamo nessun tipo di contestazione rispetto alla cifra che uno paga nel mese. L'importante è che sia adeguata alle entrate. E mai come nel caso del mutuo, direi che il valore, gli importi sono relativi, perché certo, se uno ha introiti per 10.000 euro al mese, può permettersi anche una rata di 3.300, seguendo le proporzioni canoniche. Quindi insomma, speriamo di non dover ritornare. Se invece ne ha per 1.000 euro, ecco, è un po' più in difficoltà. Senti, però, se per 2 giorni consecutivi ci arrivano rilievi su questo argomento, sarà il caso di ci facciamo una puntata. Sì, dopo Basilea 3, Basilea 4, arriva anche 2 di denari 1 come vincolo per le banche per erogare il credito. Ci manca pure e per quella, gli risparmiatori, guarda, per chiedere il mutuo. Ma tu lo sapevi che il palladio viene utilizzato nell'industria Orafam, nella gioielleria? Il palladio nel senso del grande architetto? No, il palladio come minerale, che peraltro ha avuto delle quotazioni in vistosissima crescita dall'inizio dell'anno, quando tra la crisi tra Stati Uniti ed Iran e in questi ultimi giorni, appunto, che cos'è che è successo? Che avete il virus adesso che arriva dalla Cina, e insomma il mercato torna sui beni rifugio, e a quanto pare il palladio è considerato tale. Ti interessa sapere come viene impiegato in questo settore? Ma sì, però visto che abbiamo qua un esperto di valore mondiale, come sempre qui a 2 di denari, perché non lo chiedi a lui? Perché guardi me? Allora, introduciamolo con la adeguata sigla del mercoledì. Dov'è il nuovo lavoro? Enrico Peruffo ci guarda un po' sbigottito, penserà che siamo impazziti. È perplesso, secondo me il dottor Peruffo, tra l'altro presidente di Confindustria, esatto, ora fa Vicenza. Non ci ospita più. Sì, è rimasto un po' perplesso da questa partenza così spumeggiante che abbiamo avuto dal mutuo all'IVA. Le promettiamo che parliamo di lavoro, ma questa curiosità del palladio me la volevo togliere. In che cosa la impiegate? Il palladio è una lega che si usa per che si abbina all'oro per la fusione dei gioielli, quindi è una delle leghe che si utilizzano proprio, che sono contenute nei gioielli. Quindi non è la solita congettura giornalistica, ma in realtà appunto leggevo questa mattina su qualche giornale che ha questo impiego. Ha un uso industriale, sì, ed è recentemente salito molto di quotazione, come del resto l'oro. E quindi magari c'è qualche professionista che si specializza nello sfruttare questa lega per appunto realizzare gioielli, caro Mauro. Ma guarda, sì, tra l'altro, perché io leggo qui, poi avremo modo di commentarlo tra poco, cioè dopo le informazioni naturalmente sui mercati finanziari, che già incombono, incombono tre su minuti di noi. Te li concedo. Allora, però devi sapere che nonostante, diciamo, gli anni di crisi ci siano stati e la crescita non sia proprio di quelle spumeggianti, però l'espansione delle aziende italiane che sono attive nel comparto, in questo comparto qui presente a Vicenza Oro, cioè orafo, argentiero, gioielliero, invece non si è fermata, cioè, hanno tenuto botta. Nei primi 9 mesi del 2019, c'è uno studio di Confindustria Moda sulla base di dati Istat, le vendite oltre confine hanno toccato 5 e spicci miliardi di euro, spicci si fa per dire perché parliamo comunque di centinaia di migliaia di euro, con una crescita del 7,8% sull'anno precedente. Quindi le imprese italiane sembrano molto dinamiche, in grado di intercettare la domanda. L'export va bene, beh, del resto per un settore così è ovvio che bisogna confrontarsi con l'ambito mondiale, perché altrimenti quello domestico sarebbe troppo così restrittivo. Quindi le prospettive sembrano buone anche dal punto di vista occupazionale, dottor Peruffo. Sì, da sempre il settore orafo è un settore trainato dall'export e anche nel 2019 si è confermato questo aumento delle esportazioni. E, tra l'altro anche grazie anche all'azzeramento di alcuni dazi verso alcuni paesi tipo Giappone, tipo Canada, quindi ha visto degli incrementi a doppia cifra. Di conseguenza le nostre aziende in effetti si stanno cercando personale, sono aziende che sono in crescita già da alcuni anni, il mercato è solido, l'industria è solida e paradossalmente stanno facendo fatica a trovare persone, ragazzi soprattutto giovani, che vogliono inserirsi in questo tipo di settore. Certo, giovani, perché ha sottolineato questo aspetto? Perché anche per questo tipo di imprese è importante formarli, quindi fare in modo che si possano adattare ai bisogni delle imprese in questo comparto. Perché ha sottolineato proprio questo aspetto? Sì, perché vanno formati, perché oggi le aziende orafe sono molto diverse da quello che erano 10, 15, 20 anni fa, si sono evolute moltissime, hanno tantissima tecnologia proprio interno. Usano tutti i file, progettano in 3D, certo. Usano le stampanti 3D, hanno le macchine a controllo numerico, tutte le tecnologie laser, quindi c'è anche un certo tipo di tecnologia e quindi i tecnici che inseriamo devono essere preparati e anche formati. Quindi insomma il laboratorio all'interno del quale si creano questi meravigliosi manufatti è un laboratorio che ha delle caratteristiche molto diverse rispetto a quello che possiamo immaginare. Certamente sì, mm-hmm. È molto diverso, poi chiaro che rimane anche sempre quell'aspetto più artigianale, anche più romantico se vogliamo del gioiello, quindi quelli che sono i maestri artigiani, orafi che poi con le loro mani sapienti finiscono, assemblano, lucidano il gioiello, quello rimane sempre diciamo un valore aggiunto, ma accanto a questo c'è tutta una parte di tecnologia. Certo, che la realizzazione, la filiera, diciamo, a tutti certi passaggi. No, peraltro adesso lei anche ci raccontava prima, come quando l'abbiamo presentato, è anche l'amministratore delegato appunto di un'azienda leader in questo settore, in questa provincia, ma per esempio avete il laboratorio da dove si parte, da un disegno che viene fatto da una mano e poi viene realizzato attraverso appunto tecnologie più avanzate, oppure anche l'idea iniziale parte digitalizzata? No, quello per fortuna ancora no. I designer sono ancora molto matita e carta, quindi sono ancora con dei disegni, con dei bozzetti, da lì si comincia a fare le prime ipotesi e poi quando c'è un'idea un po' più consolidata di progetto, poi si comincia a portarlo in un 3D e quindi qualcosa di un po' più... Ti piace la parola magica che ha detto carta? Carta sì, mi piace molto, carta e matita poi, dà un'idea ancora di artigianalità che tutto sommato mi conforta. Senti, vedi come vanno i mercati finanziari, perché sì. Allora se le birinzine mi vanno bene magari ti faccio anche un regalino qui da Vicenza Oro. Signore e signori... Vai a raccogliere le pagliuzze, va! Le borse. Ritroviamo il senso dell'uomo nonostante la borsa. Di denari. Eccoci ritrovati in diretta da Vicenza, dove è in corso Vicenza Oro, la grande manifestazione appunto italiana che mette in vetrina le aziende italiane attive nel comparto orafo, argentiero, gioielliero, italiane e internazionali, no dottor Peruffo? Adesso mi stavo un attimo distraendo perché qua abbiamo un piccolo problemino con internet, ma non importa. Allora, dall'orafo da banco al tecnico addetto alla progettazione 3D, alla saldatura laser, dall'assemblatore all'ustraressa. Scopro che esiste anche questa professione. Sì, che cosa fa? È praticamente la figura che lucida il gioiello, che è una delle mansioni che sembra più semplici, in realtà è una delle più difficili. Delicatissima, deve, esattamente, certo. Deve tenere esattamente le forme, i volumi, le curvature del gioiello, non deve stondare gli angoli, quindi è una mansione davvero difficile e ci vogliono anni di esperienza per arrivare a buoni livelli. Sai che secondo una indagine abbastanza recente che è stata svolta da Confindustria Moda, da qui al 2023, ma anzi da qui al 2023 c'è in programma per questo settore dell'oreficeria circa 1 migliaio di nuove assunzioni, ma si stima che nei prossimi 10 anni il 40% della forza lavoro del settore dovrà essere rinnovato, quindi stiamo parlando di 7.500 aziende, di più di 30.000-31.000 lavoratori, il 40% nei prossimi 10 anni va in pensione o si ritira oppure, non so, vincerà anche alla lotteria, qualcuno glielo auguriamo, però la sostanza è si creano dei posti, soprattutto io vado qui un po' secondo quello che si dice sempre del settore nei grandi distretti, quindi uno ci siamo oggi, Vicenza, poi c'è naturalmente Valenza Po, Arezzo, Torre del Greco, sostanzialmente questi sono i luoghi distretti industriali che trainano il settore. Esattamente. Ci conferma questo turnover molto forte, sì. Perché è praticamente quasi la sostituzione alla metà degli addetti. Sì, si attesta attorno al 30-35%, queste sono le stime nei prossimi dai qua 5-10 anni, quindi c'è sicuramente un turnover molto alto, al quale poi si aggiunge la crescita organica che già le aziende stanno avendo in questi anni qua, quindi sicuramente in futuro l'assorbimento di persone da parte del settore orfo è molto alto. La difficoltà, ripeto, sta oggi come oggi nel trovare, nel formare queste persone. E quindi formare. Ecco, infatti, ottimo. Allora intanto possiamo cominciare a chiedere come Confindustria Vicenza che iniziative avete messo in atto per poter sensibilizzare intanto un po' di più la collettività sui vostri bisogni e poi soprattutto anche che grado di risposta avete trovato, perché possiamo anche, come dire, provare a convincere le giovani generazioni che c'è bisogno di coprire determinate posizioni, poi se non ci sono le vocazioni, se non c'è consapevolezza, è tutto un lavoro inutile. No? Quindi che tipo di sforzo state facendo? Quello che abbiamo fatto noi come Confindustria, ma in realtà come tavolo intercategoriale, come quindi tutte le associazioni vicentine della sezione Orafa, è stata quella di far partire assieme alle istituzioni un corso, grazie all'Istituto Lampertico, che è un percorso quinquennale, si chiama Gold Manufacturing, ed è un percorso tecnico professionale su cui, ripeto, che dà una panoramica molto ampia di quelle che sono poi le varie professionalità all'interno dell'azienda Orafa. Quindi, come dicevamo prima, la parte progettuale, la parte di stampa 3D, la parte di controllo numerico piuttosto che il gemmologo, quindi per diventare poi incassatore, oggi si incassa sempre al microscopio per garantire un certo tipo di qualità, quindi una panoramica molto ampia di quelle che sono proprio le varie professionalità all'interno dell'azienda. Da come lei ce le racconta, sembrano tutte mansioni, come dire, di grande delicatezza e di grande accuratezza, quindi mi immagino che sia meglio cominciare da giovani, insomma da adolescenti, da teenager. Sicuramente sì. E anche perché oltre alla predisposizione, al fatto che poi ci si approccia, si avvicina anche a un certo tipo di tecnologie, a un certo tipo anche di processi in un certo modo, ma poi perché se si inizia da giovani si ha anche modo di, come dire, appassionarsi, no? Quello che si fa, e quindi avere una dedizione di un certo tipo, una passione, coltivare questo lavoro in un certo modo, che poi è sempre quello che fa la differenza. Le faccio una domanda a cui non ci può essere ovviamente una risposta univoca, ma le retribuzioni, cioè l'andamento retributivo, com'è anche in prospettiva di carriera? Mi immagino che per alcune mansioni forse le aziende del settore siano anche disponibili a strapparsi, a contendersi i migliori professionisti. In questo momento sì, perché c'è una carenza, quindi sicuramente è un mercato molto, in questo momento qua, è molto conveniente dal punto di vista del lavoratore. E in generale gli stipendi sono molto buoni, comunque sì. In generale anche l'ambiente di lavoro è molto bello, nel senso che all'interno dell'azienda Orafa c'è un clima, c'è una struttura, una modalità di lavoro molto, molto confortevole, quindi il tutto è molto positivo. E poi siete aziende che vi internazionalizzate sempre di più, quindi immaginiamo che anche le opportunità professionali che possono inizialmente svilupparsi all'interno delle aziende possono poi naturalmente ampliare i propri confini, quindi credo che anche ci siano dei percorsi di crescita che potete rendere disponibili. Certamente sì, come diceva lei prima, le aziende ORF sono trainate dall'export, quindi quasi tutte le aziende, anche quelle di medio-piccole dimensioni, lavorano principalmente, siamo attorno all'80-90% con i paesi esteri, quindi l'export molto spinto, e quindi anche dal punto di vista commerciale o dal punto di vista produttivo c'è sempre molta, diciamo, molta proiezione verso l'export. Se dovesse raccontarci l'esperienza della sua azienda, qual è in questo momento o qual è stata negli ultimi tempi proprio la gerarchia delle professioni più difficili da trovare? Da fare una gerarchia in questo momento è difficile perché sono davvero tante. Credo che le figure chiavi siano sia quelle molto tecniche, ripeto, chi progetta e fa, diciamo, i prototipi del gioiello, quindi la parte progettuale è la cosa più delicata ed è anche più difficile da trovare. E poi anche la parte, secondo me, quella un po' più anche artigianale, quindi veramente chi sa, gli artigiani orfi che sanno davvero lavorare con le mani, che sanno davvero modellare i gioielli, è un'altra cosa davvero difficile che un po' alla volta si sta perdendo, ma che, ripeto, è un know-how molto importante per le nostre aziende. Allora, io vorrei naturalmente coinvolgere anche gli ascoltatori e attivarli su questo argomento all'800240024, oppure scriveteci, noi possiamo oggi leggere i vostri sms anche qui da Vicenza al 349-238-6666. Lo sai che anche i marchi del lusso conoscono bene il problema di cui stiamo raccontando, caro Mauro, perché proprio il Sole 24 Ore raccontava qualche mese fa come i grandi big player del comparto stiano iniziando a formare appunto i propri collaboratori, e il 18 settembre a Milano l'ente di formazione Galdus con la Maison, adesso qui tocca fare pubblicità ma insomma non ha bisogno della nostra pubblicità, Pomellato, credo che sopravviveranno anche se noi non li citiamo, esatto, hanno annunciato la nascita del primo ITS lombardo dell'oreficeria. E questo sai che ci piace sempre dirlo, perché gli ITS che rilasciano praticamente sono un'alternativa al percorso universitario, esatto. E hanno, lo diciamo spesso, perché hanno delle percentuali poi di occupazione molto molto elevate, cioè quasi in alcuni automatica. Settori si arriva anche a sfiorare la piena occupazione per gli studenti che frequentano questi bienni di preparazione che sono fatti in diretto collegamento con l'azienda. Però vedo qui che è il 45esimo, sì. Se al hai mio un orologio inadeguato però all'ambiente, ma è abbastanza... Io chiedo ad Andrea Roccabella che mi vigila con attenzione, dice che più o meno sono le 11.45, sì. Vabbè, mi fido di questo gesto. E allora chiamo senza por tempo in mezzo il traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che scriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. Due di Denari. Nei giorni della Fiera dell'Oro a Vicenza, e naturalmente noi non potevamo farci mancare l'occasione di portare Radio 24 a questa kermesse, non solo per rifarci gli occhi ma anche per farci raccontare quali sono i bisogni delle aziende che operano in questo comparto. È proprio uno dei messaggi più importanti che arrivano riguardo alla formazione. È un settore che sta molto bene ma ha bisogno di giovani leve, come ci stava spiegando il nostro ospite appunto di questa mattina. Oggi in Veneto, e questo lo raccontava sul Sole 24 Ore la collega Barbara Ganz, esiste una filiera formativa davvero completa per il settore orafo, e che permette ai giovani di iniziare un percorso di crescita professionale e offre concrete opportunità di lavoro. Una volta che dottore Buffo appunto ci ha raccontato prima dell'esistenza anche di questo percorso formativo che come Confindustria Vicenza avete stimolato e creato appunto qui in questa località, come dire, dalla scuola all'azienda il percorso è immediato, poi il passaggio è immediato? Il passaggio immediato, chiaro che noi incentiviamo molto come associazioni la collaborazione e il coordinamento tra scuola, enti formativi e aziende, perché poi sono questi percorsi, vedi l'apprendistato piuttosto che l'alternanza scuola-lavoro, sono quegli strumenti che permettono il miglior allineamento tra il bisogno e la necessità dell'azienda e la formazione, poi le competenze che il ragazzo può sviluppare a scuola. Uh-huh. È chiaro che non abbiamo la pretesa che i ragazzi che entrano in azienda siano già perfetti e pronti, certo, per lavoro, per questo è impossibile, e sta a noi formarli e farli crescere. È chiaro che è importante che le scuole siano allineate con quelle che sono le necessità dell'azienda. Le cose belle che facciamo qua in Italia sono in genere molto apprezzate appunto dall'estero, e questo è il motivo per cui i vostri dati di export sono molto significativi. Ma per esempio abbiamo anche nella nostra testa così l'idea di chi si appassiona a questi manifatti, li vuole realizzare, magari dall'estero vuole venire a lavorare in questo distretto. Ci sono anche queste, sì, ci sono, queste persone, insomma, questi professionisti che magari da un altro paese del mondo. Ce ne sono diversi, perché in effetti i distretti italiani, e Vicenza è uno di questi, sono molto riconosciuti all'estero per la propria competenza, la propria personalità, e quindi soprattutto da quei paesi che non c'è una grandissima tradizione orafa vengono in Italia per imparare questo mestiere. Quindi e poi magari portarlo nelle proprie paesi di qualche origine. Volta sì, qualche volta rimangono, perché poi in realtà da noi ci sono delle signore aziende, quindi far fiore di maison, di brand, piuttosto che di aziende molto manufatturiere, però c'è tantissima specializzazione, magari in qualche altro paese non c'è questa industria o comunque non c'è questo livello, quindi magari molti preferiscono anche rimanere e trovare, insomma, il loro percorso di crescita qui. Certo, copiarvi non è facile. No, decisamente no. Tra l'altro, Deborah, stavo notando che praticamente tutti i distretti hanno delle loro attività proprio di formazione rivolte spesso a giovani, sì, in età direi scolare o appena dopo il termine della scuola dell'obbligo, perché abbiamo citato l'ITS Lombardo, hai citato i percorsi formativi in Veneto, c'è anche una fondazione Mani Intelligenti che propone un liceo del gioiello a Valenza, quindi insomma un po' in tutti i distretti si fanno delle iniziative per cercare di intercettare i giovani fin da subito, dottor Peruffo. Ma sì, c'è talmente un bisogno che addirittura le grosse aziende, grandi aziende di marchi internazionali stanno creando in questo momento delle academy al loro interno, proprio per formare le persone, formare soprattutto i giovani, perché fanno fatica a reperirne, quindi siamo arrivati al punto che le aziende stesse si stanno cercando quelle più strutturate, ovviamente stanno facendo delle accademie al loro interno, quindi questo rende molto l'idea di questo mismatch, come dicevate prima. Posso scusarmi che credo di avergli dato il cognome sbagliato un attimo fa, mi sbaglio? Sì, può darsi, può, ma darsi, naturalmente, ecco, io sarei l'ultimo a sgridarti, no, cara Deborah. E lo fai invece in diretta, mi scuso, perché vabbè, ho pasticciato con la scaletta. Detto no, questo, quindi non mi merito nessun premio, non vado via con nessun gioiello oggi. No, volevo chiedere però una cosa, mi sembra di capire che qui bisogna anche portare in loco per intercettare questa offerta di lavoro che si sta creando, cioè se un giovane è fortemente interessato è meglio, vabbè, oltre a venire a Vicenza Oro, se ha fatto già in tempo in questa manifestazione, la manifestazione chiude oggi come abbiamo detto, però ecco, forse è meglio che si porti in uno dei distretti italiani dove ci sono poi le aziende più attive. Sì, quello sì, i distretti sono catalizzatori di competenze, quindi sicuramente se qualcuno è interessato a intraprendere questo tipo di percorso, a prescindere che voglia diventare un designer piuttosto che qualsiasi altro tipo di professione, però all'interno di questo mondo sicuramente i distretti sono il luogo giusto, certo, perché ci sono tantissime aziende, c'è la competenza, il know-how che passa da un'azienda all'altra, che si diffonde, quindi poi c'è anche l'indotto, no? Quindi si costruiscono attorno alle aziende principali anche tutto un indotto di filiera, e quindi sicuramente sì, i distretti sono l'ambiente ideale per crescere e per acquisire know-how, sì. Dottor Peruffo, quanto conta per voi il curriculum finale? Nel senso che per poter inserire in azienda una professionalità di quelle che vi servono, ce le ha elencate prima appunto, è assolutamente indispensabile portare in dote il diploma specializzato appunto nel settore, perché possono esserci anche persone che magari fanno un percorso di studio sbagliato, è capitato a molti di noi, e poi in realtà ci si si manifesta meglio la nostra vocazione ad un certo punto. Quindi siete disposti magari anche ad ascoltare una candidatura di qualcuno che ha nel suo pregresso una formazione un po' diversa, ma che manifesta un reale predisposizione per questo comparto, magari non esattamente nella realizzazione del manufatto, ma magari vuole occuparsi di marketing del gioiello e del settore orafo? Certamente sì, ma le dirò anche in realtà nel manufatto. Noi abbiamo, per esempio, da noi in azienda abbiamo un architetto, una ragazza che è architetto e che ha capito che la sua poi vocazione non era esattamente quella di disegnare edifici, però era bravissima a progettare, a disegnare a CAD, e ha cominciato, la sua passione erano i gioielli, ha cominciato a disegnare e progettare gioielli. Certo. E anche poi in realtà in fase più produttiva, se vogliamo, ci sono dei ragazzi che hanno una manualità molto spinta, magari hanno fatto qualche liceo artistico o qualche scuola in cui c'è, ripeto, bisogna, si sviluppa un certo tipo di sensibilità anche manuale, e quindi quello è sicuramente un buon punto di partenza. Certo. Per imparare questo mestiere. Questo tema e questo problema del mismatch riguarda ormai trasversalmente tutti i comparti economico-produttivi del nostro paese, qualcuno ha un problema un po' più spiccato rispetto ad altri, ma non sarà un tema di comunicazione? Non è che vi raccontate male anche come azienda? Adesso la provoco sul finale, ma solamente per capire se anche il tema delle comunicazioni magari è un tema su cui bisogna sviluppare delle professionalità all'interno. Questo è vero ed è quello che stiamo cercando di fare come associazioni. È molto importante far conoscere quello che oggi siamo. Come dicevo in apertura, pochi sanno cos'è un'azienda, come si lavora dentro un'azienda orafa e che tipo di mansioni, tipo di professionalità ci sono. Dobbiamo raccontarci, spenderci meglio, sappiamo fare dei gioielli bellissimi che vediamo in tutto il mondo, dobbiamo raccontare come si fanno. Grazie ad Enrico Peruffo, presidente di Confindustria Orafa Vicenza. Adesso ci facciamo accompagnare a fare un bel giretto tra i vari stand prima di riprendere il treno che ci riporta a Milano. Sì, certo, e intanto ti vorrei segnalare che stiamo ascoltando Bang Bang questa volta nella versione di Cher, quindi My Baby Shot Me Down, quindi che siamo tornati fuori dall'Italia. Esatto. Se c'è qualcuno che ci trova la versione in napoletano di Bang Bang, noi la mandiamo. Oro. C'è Marco Lombardo, è desideroso di ascoltarla. E questa comunque vorrei dirti che è la mia preferita, questa di Cera. Va bene, lo mettiamo grazie agli atti. Grazie Peruffo, buon grazie lavoro, a voi. A presto.